Hadith numero 32. Da Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri, che Allah sia compiaciuto di lui, è stato riferito che l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: non far danno e non replicare a un danno con un danno. Hadith buono, l'hanno riferito Ibn Majah, Ad-Darqutni e altri, come fornito di una catena completa di trasmettitori. Malik lo ha riferito nel Muwatta come Mursal, cioè risalente a uno dei seguaci e non a un compagno del profeta, da Amr bin Yahya, cui è stato trasmesso da suo padre, che l'ha attribuito al profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, senza menzionare Abu Sa'id, a diverse linee di trasmissione che si confermano l'una con l'altra.